Yo. Shula. Shula. Hip Hop Selection. Blogosphere.it. Sì. Adesso la prendo, dai. Ritornello ignorante, beh, notizia giornaliera. L'importante è che qualcuno nell'Italia rap ci spera, sì. Speriamo bene che oggi la vibra suoni. Lo puoi scoprire se resti aggiornato insieme a Tony. Tony. Quei toni s'alzano e tu cerchi confronti, ma esponiti con i rapper, non con i poveri stronzi. No, no. Non ci credete nella vita, tutti pesci fuori d'acqua. Per dire solo cazzate, voi preferite la rete, non è finita. Ce ne sono ancora 8 capite, le vuoi contare ma ti sembrano infinite. Voi come Ornella state muti, se per vedere la durata del testo conti minuti. Le cose io le lascio stare, so a cacca, più notizie aggiornate del Daily Planet. Lo stile shoppa, sai che tu poi non lo confondi, no? Chiudo senza dire niente questi 40 secondi. Ok? Tony Loco, Hip Hop Selection, blogosphere.it. Sempre aggiornato, cliccano. L'SOS ci sta. PS, provvedo stronzi out now. E lo sai, Shula.